Brasil. La nostalgia do Brasil. Brasil está ali. L'Italia qui. Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Mi sa poi di cosa è il rating del Mario 2 in big situation. Yeah, I'm different than Mario, so what about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. There'll be a lot of stories about him again. No malice, we need a challenge. The media say we are savage and we are callous. When we go at it, leave it damaged. Believe in magic, they hope we burn. The thought is tragic, the thought is tragic. Allora, il razzismo è una cosa seria e pregherei Balotelli di applicarlo alle cose serie. Si sta parlando. Quindi i fratelli neri dovrebbero essere i primi a ribellarsi a questo genere di comportamento. Mario Balotelli. Balotelli, non so cosa prenda, ma ha ragione Alba, adesso il razzismo c'entra poco, ma prende sicuramente più di te, più di me, più di lei, più di tutti noi messi insieme, o vince o la fa culo. Cioè, non è che c'è alternativa. Ma non capisci di calcio. Mario Balotelli. Mi dispiace che Balotelli adesso sfrutta anche lui tutto e diventa nero quando gli va bene, diventa bianco quando gli va bene, capito? A parte che Balotelli, sai, può dire le puttanate, tutte le puttanate di tutti i tipi, per cui non mi meraviglio che abbia detto così. I'm different than Mario, so what about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. There'll be a lot of stories about him again. L'idea che Balotelli è un grande campione e che lui appartiene alla storia più bella dell'immaginario di un paese chiamato Italia. No, perché io ieri vi ho pensato tutti intensamente, vi ho pensato tantissimo mentre Rodriguez demoliva l'Uruguay, mentre Neymar si caricava tutto il Brasile sulle spalle, lo portava nei quarti di finale calciando un rigore da infortunato, un rigore, io non so, insomma, in tanti quel rigore non l'avrebbero calciato. Beh, io vi pensavo tutti in maniera intensa, perché noi siamo qui al giorno 5 a fare tutte le nostre riflessioni sul disastro dell'Italia, su Balotelli, se dobbiamo ripartire o no da lui. Io ho pensato intensamente soprattutto a Carlo Genta. Carlo, sì, eccomi. Ti ho pensato intensamente, ho pensato Rodriguez classe 92, Neymar classe 91, Balotelli classe 90. Noi continuiamo a ritenerlo uno giovane, stiamo qui a discutere se sia l'uomo su cui fondare la prossima nazionale. Intanto gli altri giocano, noi parliamo, ci facciamo le nostre pugnette mentali, gli altri giocano. Alcuni giocano, altri meno. Mi sembra che Cavani, ben più gettonato di Balotelli, non abbia fatto un gran mondiale. Ieri sera è finito fuori. Mi sembra che ci sono state tante stelle che non hanno brillato. Cristiano Ronaldo infortunato, insomma, ce ne sono stati tanti. Balotelli certamente non è giovane, certamente ha sbagliato il mondiale, la gestione, tutto quanto, e certamente l'argomento ci sta discretamente frantumando le palle. Non ne possiamo più. Sì, lo chiedo anche a Riccardo Signore, inviato del giornale, che è qui con me, inviato a Mangaraciba, poi ci aiuterà anche a capire se in trincea o in un villaggio vacanze, e che soprattutto ci aiuterà anche a capire da dove ripartiamo. Perché noi siamo qui al giorno 5 senza mondiale, gli altri giocano, poi da domani si discute del futuro, il nuovo CT, non so cosa sarà dell'Italia. Innanzitutto sarà un'Italia che deve ricominciare a trovare giocatori di valore, perché possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma Balotelli è un giocatore che ha del valore ma non lo sa esprimere. Se un giocatore ha del valore ma non lo sa esprimere, possiamo metterlo nel cassetto e ricominciare con qualcun altro. Peccato che non abbiamo il qualcun altro. Il problema dell'Italia è quello di avere giocatori scarsi in questo momento, perché quello che abbiamo visto al mondiale era quasi il meglio di quello che potevamo presentare, e francamente non era granché. È vero che ci sono stati molti campioni che hanno fallito, alcuni hanno dato meno, Cristiano Ronaldo, però non dimentichiamo che Cristiano Ronaldo ha fatto un'azione, una che è servita a tenere in ballo il Portogallo ancora per una partita, tanto per dirne una, mentre Balotelli ha sbagliato due gol, poi si è fermato, ha salutato, non l'abbiamo più visto. Questo è il problema dell'Italia. Il problema è che non abbiamo sì, grandi il problema giocatori. È che non abbiamo top player, e non solo perché non li possiamo comprare. Altra riflessione, Carlo, che ti giro: questo è il mondiale dei numeri uno. Basta dare un'occhiata anche alla classifica cannonieri: c'è Neymar, c'è Rodriguez, c'è Müller, c'è Messi. Secondo me non è un caso che noi siamo a casa in questo mondiale, perché non esprimiamo qualità. Ripeto, noi siamo legati a Mario Balotelli, di cui mi sembra si possa cominciare a tracciare un profilo, anche se ha solo 24 anni, li compie ad agosto. Anzi, io chiedo anche agli amici a casa, 800 24 00 24, se ci aiutano a mettere in fila questo mondiale dei numeri 1 e qual è la nostra giusta dimensione. Carlo? Sì, il mondiale dei numeri 1, come normale che sia, come sempre è stato, cioè il mondiale non lo vinci con questi giocatori, lo perdi con questi giocatori. Ce ne sono, ripeto, alcuni che stanno brillando, altri che non hanno fatto un bel mondiale. Potremmo fare una lista abbastanza lunga, comprendente giocatori giovani, comprendente giocatori meno giovani, Drogba, Eto'o, insomma ce ne sono tanti che non hanno lasciato traccia in questo mondiale. È vero, ha ragione Riccardo Signori, non esprimiamo granché, però questo è il momento della depressione collettiva, io credo, perché tutto sommato abbiamo un under 23 vice campione d'Europa, perché tutto sommato qualcosa si vede da De Sciglio a Verratti, lasciamo stare Balotelli, De Sciglio, Verratti, Rossi, sono tutti giocatori giovani che hanno possono avere un discreto futuro, in alcuni ruoli siamo coperti, ci metto Immobile, ci metto Insigne, ci metto tutta questa gente, Perini come portiere, sarà Sirigu dopo Buffone, cioè, insomma qualcosa c'è in giro. È chiaro che questo è il momento della grande depressione, in cui tutto ci sembra distrutto, in cui tutto non funziona più, eccetera. Io credo che dopo due fallimenti consecutivi, perché adesso stiamo pensando a questo, ma non dimentichiamo che usciamo da un altro fallimento, e in quell'altro fallimento molti di questi giocatori non c'erano, altri c'erano, compresi quelli della vecchia guardia, che dicono: vabbè, il nostro dovere l'abbiamo sempre fatto. Una generazione è finita, adesso... Sì, anche per questo, anche per questa ragione, secondo me, Carlo, quelli della vecchia guardia, grazie, arrivederci, potrebbero essere, non dico tutti, accompagnati alla porta. Io non so cosa ne pensa Riccardo Signori, ad esempio io trovo che l'autocandidatura di Pirlo, dopo che ha annunciato l'addio alla nazionale, sia il classico esempio di grazie, hai dato tantissimo, e avanti il prossimo, anche perché quello è uno dei pochi ruoli dove il prossimo c'è. Sì, no, il problema di Pirlo è anche doppio, perché... Nel momento in cui lui dice io sono, se volete sono disponibile, mette in difficoltà il commissario tecnico, perché uno ti dice chiami Pirlo, no perché devo riformare, e quell'altro dice ma perché non chiami Pirlo che è ancora un giocatore che può darti qualcosa. Quindi il commissario tecnico di fronte a un Pirlo che ti dice io sono pronto, cosa dice? No grazie, stai a casa. È un problema. Secondo me l'altro problema è anche quello di mettere insieme i cocci fra giovani e vecchi, perché comunque... specialmente nelle ultime dichiarazioni di Buffone e De Rossi hanno rotto molto, hanno fatto dei danni, e quindi devi rimettere insieme i giovani che devono crescere con i vecchi che vogliono restare o che possono darti una mano, anche secondo me non devono essere tutti, perché sennò qui non si fa più strada. Però volevo dire anche questo a Carlo: guarda che Immobile e Insigne ci hanno fatto vedere che sono ancora bassi, cioè l'asticella per loro è troppo alta, e questo è un altro problema. Sì, io nella scelta tra anziani, senatori e giovani, qualcuno li ha definiti i bimbi minchia della nostra nazionale, beh, secondo me sceglie la carta d'identità, l'abbiamo detto anche ieri, nel 2016 europeo, Buffon 38, Pirlo 37, Barzagli 35, De Rossi 33, cioè secondo me stiamo parlando di un falso problema. Carlo, una riflessione su questo, poi ti saluto. Giovani o anziani? Ma non c'è dubbio, ma ha detto tutto anche ora Riccardo, lo hai detto tu, Pirlo doveva lasciare come aveva più volte dichiarato, le dichiarazioni e il comportamento di Buffon e De Rossi a me non sono piaciuti per niente, è vero, il prossimo commissario tecnico sarà in difficoltà, io spero che sia uno con le spalle molto larghe, in grado anche di dire signori grazie, dobbiamo ripartire da un'altra prospettiva, perché è così che si fa. Insomma, mi sembra tutto molto evidente, no? In quello che è successo in questa spedizione mondiale, alla fine la vecchia guardia è quella che ha deciso ogni cosa, che ha deciso probabilmente anche la formazione insieme all'opinione pubblica, certo non Prandelli, che si è fatto condizionare in tutte le maniere possibili, e a questo punto quella generazione va ringraziata, ma quelle che, come dice Buffon, sono rotti d'ossa per la nazionale, beh, adesso toccherà ad altri. Sì, però va ringraziata e accompagnata alla porta. Esatto. Grazie Carlo, domani. A voi, ciao a tutti. Tutti convocati. La Bina! Vem Margarinha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Quatro anos atrás, eu dei uma entrevista, muito triste, muito chateado, emocionado. Tô repetindo hoje com você, mas com felicidade. Sabe, e a minha família, o que eu passei e o que eu passo até hoje. Mas eu sei que minha história na seleção não acabou. Meus companheiros estão me dando muita força para chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Faltam 3 degraus. Eu espero dar uma outra entrevista para você de felicidade e com o Brasil todo em festa. Oh, perché mentre noi siamo qui a discutere delle nostre piccolezze, del nostro futuro, tra l'altro c'è questa voce: Antonio Conte potrebbe essere la soluzione part time per traghettare nel prossimo biennio la nazionale italiana. Vi dico dopo cosa ne penso, però 800 24 00 24, se volete cominciare a prenotarvi, poi andiamo avanti fino alle 19, arriva anche Pierluigi Pardo, mi interessa sapere che cosa ne pensate voi. Beh, mentre noi siamo qui persi nelle nostre piccolezze, c'è una nazione che ieri ha letteralmente smesso di respirare fino alle parate di Giulio Cesare, al palo. Stiamo parlando del Brasile. Saluto Leonardo Bertozzi, giornalista di ESPN Brasil. Ciao Leonardo. Ciao amici di tutti i convocati. Qui in Brasile, ieri un po' di spavento, no? Un po'. 120 minuti. Però beh, è andata avanti il Brasile, mi pare che sia come quell'alunno che prende un po' la sufficienza e torna a casa, che mi dice la maestra, deve studiare un po' di più perché la prossima sarà un po' più difficile. Questa è la sensazione che c'è qui. Infatti ieri il Brasile non ha fatto una buona partita e ancora in questo mondiale non ha fatto una gran partita come ha fatto per esempio l'anno scorso una finale di Confederations, quando ha fatto quella gran vittoria 3-0 sulla Spagna. È un po', è quasi la stessa squadra, non è che sono cambiati tanti elementi. Ieri c'era Fernandinho, un po' di Paulinho, però la squadra è sempre la stessa. Pare, almeno per i critici brasiliani, che sia una squadra un po' troppo senza idea, un po' troppo dipendente da Neymar. Neymar si è preso una botta all'inizio e poi non è mai stato in gara come le altre partite. Dunque, sì, Leo, diciamo la verità, Leo, non è il miglior Brasile della storia. Noi siamo qui anche con Riccardo Signori, di ritorno dal Brasile, da Mangaraciba, chiacchieravamo anche prima. Io, dice lui, un Brasile così scarso non lo ricordo. Sì, secondo me è forse il peggior Brasile degli ultimi 30-40 anni, peggiore di quello che ha vinto nel 94 contro l'Italia Risacchia, che quindi vuol dire già ce l'abbiamo un brutto ricordo. Perché qui, togliendo Neymar, che è stato uno che ha anche stupito, perché noi lo vedevamo anche in Europa un po', che cadeva sempre un po' troppo speso, insomma faceva un po' di sceneggiate, qui invece ha fatto l'uomo trainante in tutti i sensi. Sta diventando ometto. Però voglio dire, l'attacco dopo ti lascia così, ti fa cascare le braccia, il centrocampo pure, la difesa non sai, Giulio Cesare è un ferro vecchio che noi abbiamo sperito via, invece ci ha dimostrato che sa fare ancora il portiere. Secondo me voi tra Tafareu e Giulio Cesare avete fatto in questo senso una bella collezione. È difficile trattenere le lacrime ieri, ma anche per chi l'ha vista, quell'intervista l'abbiamo sentita prima di Giulio Cesare dopo la partita, immagino per chi come voi in Brasile l'ha vissuta sulla sua pelle. Ma guarda, una cosa che un po' preoccupa è vedere questa situazione di pressione assoluta. Si sa che un secondo fallimento in casa dopo il 50, si sa la pressione che c'è sopra questi giocatori, ma poi ieri quando sono finiti i supplementari, vedere anche Julio Cesar che piangeva e Thiago Silva che era distrutto psicologicamente, lui è il capitano e non voleva neanche tirarlo il rigore, e pare che sia un peso proprio enorme da portarlo e ci si deve abituare, perché la posta in palio è sempre più grande e anche perché dal punto di vista tattico non c'è dubbio che è una squadra limitatissima, non sembra di avere un piano B, i cambi, si dice, sono sempre gli stessi. Certo che in certi settori del campo non c'è una generazione brillante, dove una volta c'erano stati Careca, Romario, Ronaldo ed altri, oggi c'è Frede, poi c'è Gio, non è che sono dei fenomeni, però... aiutaci a capire, perché in Italia ce lo chiediamo dall'inizio del Mondiale, ma Fred e Gio sono o no più scarsi o più forti di Serginho del 1982? Che per noi è il paradigma. È questa cosa, direi. Sono centravanti che un po' per uso interno ci stanno bene, però Fred è andato in Europa quando ha giocato a Lione, non è che ha fatto granché, poi è arrivato Benzema e l'hanno mandato via, poi è tornato in Brasile, ha fatto anche buone cose al Fluminense, però è uno che è un po' troppo, si infortuna troppo, si dice che un po' non è molto diciamo che è un po' Balotelli in certe situazioni, no? Mi pare un po' non molto compromesso con il lavoro di tutti i giorni. Sì, non è uno che si sbatte, stai dicendo questo, non è uno che si sbatte durante gli allenamenti. Ma l'ho visto anche ieri in panchina durante i rigori, tranquillo, col suo baffetto, che osservava gli altri andare a calciare. Beh, devo dire che, guarda com'è il mondo, prima del mondiale avremmo detto, se come Balotelli, non è male. Dopo il mondiale diciamo, se come Balotelli, lasciamo perdere. Questa è la caducità del mondo del calcio. Comunque voglio dire, effettivamente io Serginho me lo ricordo, perché anche l'ha frequentato ai tempi quando c'era quel Brasile, forse era meglio allora, era meglio Serginho di questi due, quindi mi sembra che la linea è poi basta. Io vi posso raccontare un aneddoto, ho parlato recentemente con qualcuno che Serginho nell'82 l'ha marcato, mi ha raccontato che Bearzot ha passato il giorno prima a raccontare che Serginho era fortissimo, allora si faceva meno scouting, videocassette, tutte queste cose qui, mi ha detto, te lo dico sinceramente Giovanni, era una pippa incredibile Serginho, e noi abbiamo questo ricordo, per questo per noi Serginho, Freggio, resta sempre quello il paradigma. Mi dici come pensate lì in Brasile della Colombia, di questo quarto di finale, che visto da qui è molto più equilibrato di quanto si potrebbe pensare. Guarda, la Colombia ha fatto 4 vittorie su 4, Brasile 2 vittorie e 2 pareggi. Va bene che la Colombia non c'era nel gruppo, non c'era nessuna potenza internazionale, però a livello di gioco, a livello di tattica, a livello di certe prestazioni individuali, no? Abbiamo visto come sta giocando James Rodriguez, abbiamo visto come sta giocando Cuadrado, che lo conoscete benissimo. Dunque è una Colombia da rispettare, però pare che a volte ci sia un po' di sudditanza psicologica sulle altre squadre sudamericane che non Argentina e Uruguay. Si intimorisce un po' di giocare contro il Brasile. È vero che col Cile non c'è stato un po' di questo ieri, però con la Colombia non si perde dal 91, dunque un po' di storia credo sempre sia bello saperla, però oggi a livello di prestazioni sicuramente la Colombia ha fatto molto di più del Brasile fino adesso. Sì, la storia pesa. Ricordiamo anche che il Brasile aveva sempre battuto il Cile quando contava nelle fasi di eliminazione diretta dei mondiali, secondo me non è un caso che poi alla fine sia successo anche ieri. Grazie Leo. Grazie amici, siamo sempre a disposizione. Un buon programma, un saluto a tutti i convocati. Ciao Leonardo Bertozzi, ESPN Brasil, 800-24-0024, ci sono Cesare da Bari, Pietro da Milano, cominciamo con Cesare. Cesare. Sì, buonasera. Prego. A tutti, complimenti. Grazie. Per questa trasmissione che seguo spessissimo. Senti, una considerazione e una domanda. Allora, la considerazione è questa, e cioè l'ipotesi che si paventa, ma secondo me è proprio un ballon de sé, di Conte a mezzo servizio, e se dovesse essere vera rappresenterebbe proprio il momento di totale confusione del calcio italiano, confusione e pochezza tecnica e tattica, o meglio più che tattica tecnica e quindi anche dirigenziale. Sarebbe proprio un tipico caso di pochezza intellettuale da parte della dirigenza della federazione e si sposerebbe appunto, come dicevo, con la povertà Sì, io non so se sia economica. Io non so se sia l'ipotesi peggiore in campo, io ho letto anche di peggio in queste ore nell'elenco delle peggiore, candidature. Ma come si fa a pensare ad un allenatore che allena una squadra di livello come la Juve e che alleni poi anche la nazionale? Ma comunque questa è una considerazione. Io dico che se fosse realizzata sarebbe appunto un pasticcio grosso che darebbe proprio corpo all'idea di una federazione in stato confusionale sotto diversi punti di vista. Aggiungo Cesare, poi Riccardo Signori oggi firma sul giornale l'Italia cerca novità ma la vecchia guardia ha fatto i giochi, scrive alcune candidature non potrebbero neppure dirigere un oratorio, peccato che il calcio di oggi, il calcio italiano sia guidato peggio di un oratorio, la nostra federazione in questo momento non è in stato confusionale, la nostra federazione non esiste. Sì, no, effettivamente la quindi federazione non vale esiste, tutto. Non esiste e sul caso Conte vorrei dire una cosa, all'Italia non serve un allenatore, serve un selezionatore, per quello dobbiamo smetterla di raccontarci storie. L'allenatore nazionale è un selezionatore, quando si parla di progetto di gioco è una stupidaggine, perché quando tu hai poco tempo a disposizione non devi pensare al progetto di gioco, devi pensare a vincere, è l'unica cosa che conta con un nazionale. Conte è bravo ad allenare, è bravo a creare un gioco, ma non sa selezionare, tant'è vero che Pirlo non lo voleva lui. Pietro da Milano, Pietro. Sì, eccoci, buonasera a tutti. Eccoci, prego. Due cose, la prima riguardo Balotelli, sicuramente l'unico a guadagnare da questo mondiale sarà Raiola, che ancora una volta lo piazzerà a pochi soldi a qualche altra società, e a guadagnare saranno i signori delle plusvalenze. Sì, ho qualche dubbio, però prego Pietro. Mentre la seconda, chapeau a Totti, che ha dimostrato qualche anno fa di farsi da parte dalla nazionale senza mettere in imbarazzo il commissario tecnico, cosa che a quanto vedo i nostri della cosiddetta vecchia guardia oggi non sono ancora in grado di fare. Un'ultimissima cosa invece sulla federazione, ci sono troppi interessi ancora legati soprattutto ai diritti televisivi e quindi credo che la scelta anche in federazioni saranno delle scelte fatte con la calcolatrice, non ci sarà nessuno che può risollevare le sorti della nazionale. Sì, temo che siano scelte fatte non guardando al progetto, anche a quello che del progetto che è stato fino a ieri, che non era solo Prandelli, era tante altre cose, era ad esempio Sacchi, responsabile delle giovanili in federazione, è stato fatto tutto cancellato da dimissioni, ha scritto sconcerti e io lo condivido sul Corriere della Sera ieri, va bene, ve ne siete andati ma spiegateci in che cosa avete sbagliato, non è sufficiente dire colpa nostra, ci dimettiamo, questo riguarda Prandelli ma riguarda anche Abete, la federazione e chi adesso dovrebbe decidere. Drammaticamente loro non sanno cosa hanno sbagliato perché non l'hanno fatto, questo è però il dramma della calcio italiano. Comunque voglio dire, purtroppo siamo in mano a una vecchia guardia, perché se voi guardate i candidati hanno 77 anni, 71 anni eccetera, che non vogliono avere le nuove facce. In questo senso c'è il CONI che spinge per avere facce nuove, ma sarà difficilissimo perché comunque coi voti in mano si va presto a vincere queste partite. 800240024, vi aspetto, dovete dirmi qual è il vostro CT preferito, il prossimo CT per l'Italia. Adesso arriva anche Pierluigi Pardo, torniamo subito. Parte Ferra, palo! Brasile ai quarti, il Milan è una bolgia, il Cile sta a testa altissima. 120 minuti di grande calcio, onore alla Roca. Tutti convocati. Super Mario Ballotelli, Mario Bros, Mario Gol, barzellette su Mario, foto di Mario nel penitenziario. Diamogli un'occasione con le donne, è il migliore. Mario usa il goldone, ha una figlia, il campione. Per quanto riguarda Mario Balotelli, rientra proprio nel progetto tecnico. Io ho scelto e io mi dimetto, che non è stato un progetto tecnico vincente. Diciamo Balotelli conosco da quando ero ragazzino, quando è venuto c'era 17 anni, tutto si vedeva che ha grandi qualità e si vedeva anche che c'era un carattere un po' particolare. Quello che gli manca sicuramente continuità, sicuramente quella rabbia, fame, quella che forse anche la passione, quello che puoi vedere da alcuni grandi campioni. Mario calciatore sempre pronto all'azione, altro che Schwarzenegger, Rossi, Best e Stallone, pronto col pallone, pronto per il gol, ma poi una munizione, poi un altro flop. Balotelli talento calcistico, quello di sicuro. poi siamo sempre lì che Balotelli è da anni che gioca quei 3-4 palloni bene e poi non si vede. Quando acquista la continuità e la partecipazione con la partita, penso che si potrà dire che è grande giocatore, per oggi è più giocatore per i media. Non ho capito perché si critichi solo Balotelli, che è l'unico attaccante che ha fatto un gol, è l'unico attaccante che ha creato occasioni da gol, gli altri attaccanti non hanno neanche creato le premesse. Sembra quasi che sia uscito Balotelli, non capisco. Io non ho capito, carissimo Riccardo Signori, se a settembre Balotelli sarà convocato o no. Non ho capito quale sarà il CT, ma questo, ripeto, ne parliamo da domani. Non ho capito se Balotelli è il punto di partenza o il punto d'arrivo della storia di questa nazionale. Per il momento a me sembra un punto d'arrivo, nel senso che, visto come è andato, devi prendere, metterlo da parte e ricominciare, perché devi capirlo anche lui. Lui continua a giocare a modo suo, nel suo mondo, e effettivamente sbaglia tutto. Quando sento dire perché non ce la prendiamo solo con Balotelli, ma signori, questa nazionale era fondata per lui, è stata fatta per lui, creata per lui ed è finita con lui. Pierluigi Pardo, si parla in Brasile, vero, di Balotelli o di Rodriguez, di chi si parla? Forse più la seconda che hai detto. Sì, buona la seconda. Sì, più della seconda, sì. Alla fine la storia è dei vincitori, non di chi torna a casa, insomma, quindi. In questo momento, in Brasile in questo momento si parla solo praticamente di Giulio Cesar, però insomma questa è la sostanza, insomma. Sì, abbiamo sentito prima Leonardo Bertozzi che ci ha detto però siamo un po' preoccupati per questo Brasile, perché insomma abbiamo l'idea che non abbia lo spessore per vincerlo questo mondiale, e anche le lacrime ieri che hanno accompagnato i calci di rigore sono il segnale di una pressione eccessiva che evidentemente questa nazionale fatica a sopportare. Ho l'impressione che da qui al 13 luglio avremo parecchie storie da raccontare intorno al Brasile e intorno a questo tentativo di vincere il mondiale in casa. Sicuramente no, ma il Brasile tecnicamente non ha proprio la forza per poter. È il solito discorso: in una competizione a 38 partite, secondo me il Brasile arriva quinto o sesto nel mondo oggi, non arriva in una posizione migliore. Però insomma, fra fattore campo e partite secche, quindi eliminazione diretta, tutto può succedere. Quello di ieri è stato un bel giro del destino, una bella svolta, però insomma è lunga e mi sembra soprattutto che ci sia una pochezza in mezzo al campo abbastanza clamorosa. Sì, è stato però anche secondo me, qui torniamo al discorso iniziale, la spiegazione, l'esemplificazione di come anche in una squadra modesta, se tu hai il giovane campione, la stella che davvero ha fatto un processo, sta facendo un processo di maturazione, in questo caso mi riferisco a Neymar, alcuni di quei tuoi limiti, alcuni di quei tuoi problemi li puoi superare, cosa che all'Italia non è successa, perché la presunta stella ha fallito o comunque avevi scommesso sul cavallo sbagliato. Pier. Sì, no, questo è senz'altro. Insomma, il Brasile ha delle qualità, sicuramente è una delle squadre che può vincere il mondiale. Secondo me non è una squadra perfetta, insomma, non è rispetto ad altre generazioni del Brasile, tra tutte quella dell'82 che però uscì, insomma, clamorosamente, insomma, non è all'altezza. Questa è la sostanza. Detto questo, poi magari vincerà il mondiale, perché comunque il fattore campo può molto, perché tutto gira in partita eliminazione diretta. Le distanze fra vincitori e vinti sono distanze spesso legate a un episodio, a un aiuto arbitrale che pure ieri non c'è stato, a una situazione che finisce in un certo modo. Sì, all'incredibile traversa di Piniglia. Tu pensa alla parabola di Piniglia che è passato in 5 minuti da possibile eroe. 5 centimetri più sotto e il Brasile era a casa. Ma noi che commentiamo lo sport, ricordiamocelo sempre, soprattutto il calcio, e commentiamo questa roba qui, una roba dove se tu tiri, se l'inclinazione del piede fosse stata 5 centimetri più sotto, adesso il Brasile era a casa, Scolari era un allenatore scarso, ha sbagliato tutto, e questo è, insomma, questo vale per tutti. Poi noi dobbiamo essere bravi, tornando all'Italia, nell'analizzare i problemi, nel capire le difficoltà strutturali, le cose che non hanno funzionato, ma insomma probabilmente con un altro arbitraggio andava avanti un turno, Coppa con Colombia te la giocavi, perché te la giocavi, perché a questo livello qui secondo me tutte le partite comunque c'erano dei rischi. Squadre perfette io non ne vedo al momento. Sì, anche se la Colombia vista ieri va a un'altra velocità rispetto all'Italia, fa almeno insomma, a vedere da qui fa quasi un altro sport. Saluto Carlo Laudisa, firma numero uno della Gazzetta dello Sport per il mercato. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Voglio capire se dopo quello che abbiamo visto anche ieri, insomma, cosa cambia per il mercato delle italiane, se c'era un mercato. Ad esempio io ieri ho fatto un pensiero, mi sono detto Sanchez la Juventus lo può salutare, se voleva chiudere doveva chiudere prima. Sì, condivido la tua considerazione, anche perché i fatti stanno dimostrando che la Juve ha già preso atto di questa sentenza che va al di là del mondiale, perché comunque Alexis Sanchez ha un ingaggio già intorno ai 5 milioni, ha delle aspettative, le stesse che ha il Barcellona, chiede 40 milioni, chiedeva 40 milioni, quindi io temo che il Barcellona sacrificherà Sanchez, ma lo manderà in Premier League. Come... Sì, difficilmente andrà la Juventus. Temo di no, mentre la Juventus è evidentemente molto più motivata, molto più determinata su Juan Iturbe, l'esterno alto del Verona, su cui anche il Milan ha messo gli occhi, visto che peraltro sta per liberarsi Kakà. Vedremo questo inizio di settimana cosa ci può riservare su questo fronte. Ecco, ma su Iturbe cos'è che blocca la Juventus dal chiuderlo? Cioè, se Iturbe è davvero l'obiettivo di mercato, credo che se l'avversario della Juventus è il Milan abbia la possibilità marotta di chiuderla questa operazione senza aspettare che poi magari fra un paio di settimane si inserisca qualcuno da fuori. Beh, infatti la Juventus sta cercando di accelerare il più possibile i tempi. Quindi chiude. Però il Verona invece tentenna, perché spera che oltre al Milan magari possa nascere qualche pista straniera. Vedremo, ripeto, Verona ha speso 15 milioni per riscattarlo dal Porto, e questo è un problema non da poco, perché non a caso adesso Setti e Sogliano chiedono 30 milioni. Sì, si deve partire da cifre ben più alte. Quindi è una cifra che sicuramente è rilevante, per la quale bisogna vedere se la Juve effettivamente si appronta ad arrivare a questa asticella. Sì. Ora l'offerta di 21 milioni più Quagliarella. Sì, Pier, io oggi ho letto un po' su tutti i giornali italiani questa storia meravigliosa di James Rodriguez, che un paio di anni fa, tre anni fa, era praticamente un giocatore del campionato italiano con proprietà tra Bari, Juventus, poi insomma l'affare non si è fatto. Ti chiedo se secondo te hai visto qualcosa al mondiale che sia da mercato italiano, viste le possibilità che abbiamo noi oggi, Pier. Ma seconde linee, sì. Ma io guarda, più che altro vedo delle cose che voi umani, cioè vedo per esempio questa Colombia infarcita di italiani. Yepes, Zapata. Ecco, ma italiani con tutto rispetto di seconda fascia, no? Che da noi faticano tantissimo e che diciamo passano alla storia per portare a casa raramente la sufficienza. Insomma, poi vediamo in questo contesto le cose cambiano. Allora, delle due l'una, può significare che ovviamente il loro focus sul mondiale è stato talmente importante, talmente clamoroso che hanno sacrificato delle energie. Nel caso di Yepes e Zapata stiamo parlando di giocatori comunque in avanti con l'età, e quindi è chiaro che è più facile fare un mese e mezzo preparato bene piuttosto che avere una continuità di rendimento nelle 38 partite di un certo tipo. Però insomma fa abbastanza impressione, anche lo stesso Zuniga sappiamo che ha avuto un infortunio abbastanza misterioso, non perché non ci sia stato, ma sì, molto lungo nella sua gestione, molto lungo esattamente dopo la firma del rinnovo contrattuale, e adesso lo vediamo protagonista, no? Armero, fa abbastanza effetto tutto questo, fa abbastanza effetto. E poi insomma c'è una fascia di giocatori medi secondo me che per il mercato italiano può essere interessante, questo sì, insomma. Sì, a patto di arrivarci, perché ad esempio c'è la storia di De Frey, che la Lazio era lì a trattare 100.000 euro più, 100.000 euro meno, e alla fine potrebbe finire al Manchester United, perché se poi aspetti il mondiale, caro Laudisa, c'è anche questo rischio. C'è chi ci chiede via SMS se il Chelsea si può davvero permettere 75 milioni per Pogba. C'è il traffico, poi rispondiamo. Beh, mica male, eh? tutti convocati. Sì, sì, un po' di vacanza, un po' di tranquillità con la famiglia e dopo tornare più forti che prima. Li tranquillizzi i tifosi della Juve, rimani lì. No, no, tranquillo, saluto a tutti. Sì, tranquilli mica troppo, tifosi della Juventus, questo era Vidal. Carlo Laudisa, va via o no Vidal? Su Vidal ci sono le attenzioni, quindi bisogna stare in campana, anche su Pogba mi chiedevi prima. Sì, il 75 milioni il Chelsea. Per un giocatore di 21 anni un club della imponenza del Chelsea può anche permetterseli, così come si è parlato del PSG. Vediamo, perché questa è una partita tutt'altro che chiusa e quindi stiamo parlando di cifre enormi che impongono alla Juventus di essere coscienziosa nel valutarle, quindi la linea è quella di tenere entrambi. Io ho l'impressione che semmai di fronte a un'offerta importante si deve partire tra i due, si preferirà il sacrificio di Vidal piuttosto che quello di Pogba, anche incassando qualcosa meno, però scommettendo sulla possibilità di fare un progetto tecnico su Pogba. L'altro top player del nostro campionato che credo Carlo sia in partenza è Cuadrado, straordinario, difficile pensare che la Fiorentina lo possa tenere. Sì, perché è un problema anche di ingaggio in questo caso, no? Perché è vero che i Della Valle hanno fatto un sacrificio rilevante nel spendere 15 milioni per riscattare l'Udinese, ma adesso bisognerà anche accontentare il giocatore che è evidentemente distratto, uso un eufemismo, soprattutto dal Barcellona, dove credo che stiano preparando la grande offerta, certamente superiore ai 30 milioni. Sì, l'offerta che non si può rifiutare. Chiedo a Riccardo Signori quanto vale davvero Cuadrado, perché se io penso che Bale è stato pagato 101 milioni di euro, che il Manchester United ha appena preso Shaw per 40 milioni, credo che Cuadrado sia almeno su questo livello, altro che 30 milioni. Sì, povero Cuadrado, nel senso che forse vale più di quanto sembra. Devo dire che deve ancora raffinarsi, arrivare fino in fondo. Cioè, è un giocatore che ti fa vedere belle cose, forse gli manca ancora un pizzico, un salto di qualità in questo senso. Il bello del mondiale è anche questo, che ci sono dei giocatori che, come Vidal, comunque non si sono svalorizzati, perché rischiano ogni tanto di svalorizzarsi. Invece, facendo un mondiale dignitoso e discreto, è un vantaggio anche per la società. Sicuramente Cuadrado è uno che sta ottenendo molto più valore e vedremo alla fine quanto, chi lo prenderà soprattutto. Sì, poi dove andrà? Poi c'è chi chiede, ma come i Turbe, come fa a valere 30 milioni? Che cosa ha fatto? Queste sono logiche di mercato che non rispondono soltanto poi all'esatto valore del giocatore, ma anche alla prospettiva di crescita, a plusvalenze e a ciò che c'è scritto sui bilanci. Anche gli allenatori. Anche gli allenatori. Saluto Carlo Laudisa, grazie Carlo. Sì, ciao a tutti. Alla prossima, ciao Carlo. Io non so se in Brasile Pier si parla del futuro di Kaká, che ieri ha twittato le sue foto insieme ad amici e familiari a seguire la partita del Brasile. Domani c'è la cena d'addio al Milan, si chiude una parentesi, non ci sarà nessuno, Pier, sotto le finestre questa volta a urlare non si vende Kaká. Ho l'impressione che sia la soluzione che voleva il Milan, quella del divorzio. Ma io penso che sia stata un tentativo, una scommessa, uno scorso di Galliani, un'occasione in qualche misura, perché poi comunque era stato portato con un investimento abbastanza relativo, ci si è resi conto che non è più un giocatore in grado di fare la differenza e quindi chiaramente si cerca di tirare fuori un tesoretto anche soltanto dal punto di vista dell'ingaggio. Sì, risparmiare. Ad esempio attaccare i Turbe, no? Perlomeno la prima tranche di Turbe, quindi mi sembra che sia il finale logico di una lunga storia d'amore, se vuoi. Sì, con un capitolo di troppo forse, che è stato quello del ritorno, sì, ci si poteva fermare al 2009. Il Milan negli ultimi anni l'ha fatto spesso queste operazioni, ha cercato spesso un po' per necessità anche, perché non aveva la possibilità di andare a comprare, diciamo, Robben nel pieno della forma o Suarez. Sì, ha cercato forma, di puntare sul nome, sul ritorno. Sì. Assolutamente. Maurizio dalla provincia di Salerno. Maurizio, dai che riusciamo a farne un paio prima di fermarci. Maurizio. Grazie. Sì, grazie per la convocazione. Prego. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Quando mi sono prenotato, volevo intervenire su Conte, ma credo che l'argomento... No, potete intervenire su quello che volete. Tra l'altro di Conte continuiamo a parlare anche dopo le 18 con Pierluigi Pardo, abbiamo anche un ospite, quindi andiamo pure avanti. Mi associo a quello che ha detto Cesare Di Bari, mi pare, sì, sull'assurdità di questa scelta, sia perché non esiste un selezionatore della nazionale part-time, sia perché c'è un grave profilo di incompatibilità, diciamo, senza neppure andare nel merito delle capacità di Conte, che non potrebbero non essere altrettanto valide quando va a fare il selezionatore. Ti piace, Pier, l'idea di Conte part-time? Mi sembra impraticabile in un paese come l'Italia, purtroppo, perché secondo me alla fine il vero motivo per il quale la cosa di Conte non è praticabile è soprattutto di opportunità politica, cioè l'allenatore di una squadra importante che polarizza ovviamente simpatie e antipatie della gente non può diventare l'allenatore di tutti, questo è come la vedo io. Sì, sarebbe spaccare l'Italia tra juventini e anti-juventini, ancora più di quanto è stato. Pensar male su qualsiasi convocazione, pensa qualsiasi convocazione, che ne so, in amichevole non convoca gli juventini per averceli. In altri paesi sarà fatto questo tipo di discorso, ma evidentemente sono paesi un pochino meno macchiavellici e nei quali probabilmente la nazionale conta più dei club. Da noi, siccome alla fine, al di là di tutte le storie, della nazionale ce ne frega per 20 giorni all'anno, lo so che il discorso è impopolare, sì, soprattutto una volta ogni 4 anni, perché già l'europeo interessa con moderazione. No, ma comunque è vero questo fatto che noi italiani non possiamo sopportare una cosa del genere. Nel passato qualche tentativo c'è stato, così qualche andare a acchiappare qua e là, un tecnico che poteva essere stato famoso per le squadre di club, però voglio dire, il problema vero è che l'italiano medio non accetta, cioè l'italiano è fatto solo di contrade, e noi siamo fatti di contrade, la nazionale è un caso isolato. Sì, anche gli esperimenti in altri sport non sono riuscitissimi. Io credo che al di là di Conte si può andare a cercare un buon allenatore, sempre che i allenatori italiani siano buoni. Oh, abbiamo tempo per parlarne ancora, Pier, resta lì, resta con noi. 800 24 00 24, adesso c'è anche Bet Corner. Nel calcio siamo dei professionisti, quindi mai dire mai in tutte le situazioni, anche perché ribadisco un concetto che deve essere chiaro: io sono tifoso della Juve, sono allenatore della Juve, ma dovessi allenare il Milan e l'Inter, Conte sarebbe lo stesso. Forse a qualcuno non è chiara sta cosa. Diventare il primo tifoso del Milan, diventare il primo tifoso dell'Inter, della Roma, del Lazio. Io sono un professionista. Quote e pronostici. Domenica di passione al Mondiale brasiliano, altri 180 minuti o più per decidere chi sarà degno di essere tra le migliori 8 del mondo. Si parte alle 18 e il teatro è il Castelao di Fortaleza. Gli attori hanno la maglia orange dell'Olanda e verde del Messico. Sono queste le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dell'Olanda, è quotata a 2,05. L'X è a 3,30. Il 2, con il successo del tricolor messicano, è quotato 3,65. È possibile anche indovinare il primo marcatore di questo match. Van Persie per l'Olanda è quotato 5, Robben 6,50, Depay è quotato 8,50. Nel Messico spiccano i nomi di Peralta e Hernandez, quotati 8, Giovanni Dos Santos quotato 12. Alle 22 invece all'Arena Fernambuco di Recife c'è la sfida tra due sorprese, Costa Rica e Grecia, mai così in alto ad una fase finale della Coppa del Mondo. L'1, la vittoria della Costa Rica, è quotata 2,40, l'X è a 3,15, il 2 invece, con il successo della Grecia, è quotato 3. È possibile anche qui indovinare il nome del primo marcatore: Campbell è quotato 7, Ruiz 8,50, Mitroglou 8, Samaras 10. Questa era l'ultima delle quote di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Jackson Martinez è arrivato alla copertura, ancora Jaime! Jaime Rodriguez! El 10! Che gol! Che gol del 10! Lego! ¡Gracias! sono dei fuoriclasse. Grandi, sono io, grandi. Il nostro Pierluigi Pardo, che credo ci senta, è già, lui è un top fra i telecronisti, però gli amici sudamericani colombiani sono assolutamente inarrivabili. Io non so, Pier, se tu saresti in grado di produrre un gol come quello del tuo collega colombiano. Ma insomma, dipende anche dai, no, giorni. Ma no, secondo me la cosa dei telecronisti è abbastanza divertente, perché secondo me riflette la telecronaca, riflette un po' la cultura e il carattere del paese. Per esempio, sono i tedeschi che stanno zitti per interi secondi, sono telecronache tedesche veramente con anche 10-15 secondi di silenzio. Non sto scherzando, le telecronache inglesi sono molto ritmate, secondo me sono molto belle come stile, però sono abbastanza, anche quelle, i vuoti prevalgono sui pieni, no? The ball's deflected, now, Adams with a flank, ball, capito? Tutto molto così, con molte fasi anche di vuoto. Le telecronache spagnole sono invece abbastanza vicine a quelle sudamericane, quindi con più pieni che vuoti, sì, diciamo. Ma tu quanto sei andato lungo con un gol, se insomma, se ti è mai capitato? Perché qui siamo a 15, 20, 30 secondi, ci vuole anche il fisico, Sì, no, ma il fisico si può fare. Per esempio, scusa, i vari telecronisti paziosi, i vari telecronisti faziosi tipo Auriemma, tipo Zampa, che fanno le telecronache per Mediaset Premium, ad esempio, o De Angelis, o il nostro mitico Giuliani, insomma, Recalcati, Bellegatti, lo dico di tutti e sei, loro sui gol sono, si scatenano e vanno avanti anche per tanti secondi. Go Zampa, piuttosto che Auriemma, che fa si gonfia. Quindi secondo me non è un fatto fisico, fisicamente si può anche fare, è questione più che altro di opportunità, insomma, se farlo o no. Per un gol della nazionale si può tranquillamente esagerare, e poi insomma, e poi c'è lo spagnolo che è stupendo, è un po' di ispirazione anche, perché fantasia e ispirazione. Certo. Fantasia, ispirazione, poi lo spagnolo aiuta. 800-24-0024, intanto Olanda-Messico, dodicesimo minuto, primo tempo, è uscito De Jong, credo infortunato, al suo posto Martins Indi, quindi non inizia benissimo per l'Olanda. Noi la seguiremo fino alle 19, poi ancora con gli aggiornamenti nel corso dei notiziari di Radio 24. So che Piera ha ancora qualche minuto, poi ci deve lasciare per molteplici impegni. Allora, eravamo in debito con Giorgio dalla provincia di Trento. Giorgio. Salve, grazie per la convocazione. Niente, mi sentite? Sì, prego. Niente, sono convinto che il signor Pardo sarebbe stato in grado di emulare i suoi colleghi stranieri. Magari lo facciamo provare, così no, in diretta. Prego, Giorgio. Avrebbe avuto poche occasioni. Sì. Perché non ne abbiamo messo dentro una, a parte la prima partita che non ho visto, perché ero all'ospedale, c'era un temporale della Madonna e è saltato il segnale. Sì, e allora per quello che siamo stati eliminati, perché la seconda e la terza, ecco, le ho viste, Giorgio ha cambiato posizione. Sì, niente, per quanto riguarda il mister, avrei portato Zeman, ma sono ulteriormente contento perché è andato al Cagliari, che è la mia squadra del cuore. Pronto? Sì, ci siamo. E che la mia squadra del cuore avrebbe portato magari anche a storie e punti che sarebbero venuti molto ma molto comodi per questa nazionale. Sì, a storie c'è stato fino al quasi il giorno prima, la settimana prima, poi evidentemente sì, è stato bocciato da Prandelli. Pier, mi dai il tuo podio di candidati per il posto da CT? Lo chiedo anche agli amici a casa, 800-24-0024, perché adesso proviamo a parlare anche del futuro. Abbiamo finito questi processoni all'Italia che è andata male in Brasile. Mi dici il tuo podio di preferiti? Ma di preferiti, per me il favorito è Allegri, cioè il più probabile è Allegri. Sì, ma tu chi vorresti? Cioè, qual è il profilo giusto? Ma io volevo uno straniero. Io ho avuto Iddink, ma ha firmato con l'Olanda, e quindi per proseguire il lavoro di Van Gaal, per me Iddink era l'allenatore ideale, perché secondo me a questo punto è chiaro che gli allenatori italiani sono sempre straordinari e non può essere la debacle del 2014 a cambiare la storia, però insomma questo è un momento nel quale secondo me al calcio italiano contaminarsi un po' con culture calcistiche diverse può far bene. Iddink è il miglior minestraro che io abbia mai conosciuto, cioè è uno straordinario allenatore, uno straordinario selezionatore, secondo me, uno che arriva in sistema ed era perfetto, però insomma allenerà l'Olanda e quindi niente. Tra questi qui, sai, decidere fra Mancini e Allegri è abbastanza complicato. Sì, come decidere fra papà e mamma, nel senso che potrebbero andare bene tutti e due. Il problema è che poi l'elenco dei candidati è molto più lungo. Mancini ha vinto di più di Allegri, però è anche vero che Mancini ha avuto più possibilità. Cioè, secondo me tu l'allenatore lo devi sempre considerare un po' in termini percentuali. Sì, nel contesto in cui è stato calato. Cioè, il campionato col Cagliari o il campionato col Sassuolo che ha fatto Allegri per me equivalgono a dei successi, e poi al Milan ha fatto un grande primo anno e poi insomma sappiamo tutti come è finita. Sì, Mancini, e poi tutto il resto sicuramente più stagioni. Riusciamo a fare il volo, Domenico dalla provincia di Napoli. Domenico, buonasera, grazie, prego. Grazie per essere stato convocato. Ma io sono per un allenatore che unisca gli italiani, e certo Conte non lo è, sì, che se è vero, e quindi vari Guidolin, Reia e forse anche il campione del mondo Fabio Cannavaro, perché no? Ma magari perché non si è mai seduto su una panchina, però, esatto. Però questo è il mio pensiero. Fa un po' paura Cannavaro che pronti via su una panchina, sì, sì, però si è fatto anche il suo nome, eh? Traffico. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata, di questa giustizia sportiva che, credetemi, lor signori, è agghiacciante. Tutti convocati. Sbagliato, punto e basta. E Mario deve crescere, perché a 23 anni è un giocatore di livello mondiale, rappresenta la nazionale italiana e deve crescere. Basta, finito. Ha sbagliato e dalla volta in poi si spera che non sbagli più. As a player could be like Cristiano e Messi if he understand that to be like this you should work hard, your mind should be always in your job. Vero, è stata una settimana di Balotelli, e c'è tanto entusiasmo, ma io penso molto a chi ha Pazzini, Da casa puoi giocare anche tu. C'è un'altra valutazione che ha fatto Prandelli che non hanno fatto nessuno, che è quella del clima in cui si gioca, che le partite difficilmente avranno grande intensità. Nella bassa intensità i centrocampisti hanno più vantaggio, fanno possesso palla, sono abituati nelle difficoltà del caldo a lottare, è stato così. Oh, ci aveva capito anche Spalletti, carissimo Riccardo Signori. Questi sono i quattro super candidati nei loro rapporti passati con Balotelli e con... Devo dire che Spalletti in questo caso non sarebbe stato adatto a far giocare la nazionale, perché lui tutto può fare tranne che farà giocare la nazionale a bassi ritmi. Devo dire anche un'altra cosa: se Prandelli aveva capito così bene che ci giocava a bassi ritmi, ed è vero, allora non ti porti a Aquilani e Cerci, ma ti porti Totti. Dai la palla a Totti, giochi a basso ritmo. Sì, sì, si gioca da fermi. Pier, prima di salutarti, no, perché poi gira la ruota. Noi abbiamo scherzato, la verità è che vale tutto. Abbiamo letto qualsiasi cosa in queste ore, anche l'ipotesi di Cannavaro, Cabrini. Rivera si è autocandidato, Rivera ha detto: beh, se serve un CT a tempo lo faccio io. Domani c'è il primo consiglio federale, quello che deve cominciare a ragionare sul prossimo CT. Carissimo Pier, non si accettano scommesse, lasciaci con un tuo pensiero. Ma io innanzitutto, a proposito di quello che diceva il nostro ascoltatore precedente, non penso che debba per forza esistere un allenatore che unisca gli italiani, no, quello secondo me non serve. Serve semmai un primo ministro, no, un anche perché l'abbiamo avuto con Prandelli, il democristiano, gode di ottima stampa. Anche troppo. Secondo me serve un allenatore bravo, ma soprattutto serve una profonda ristrutturazione dei DAI del settore giovanile, e dobbiamo capire che ormai il calcio è globalizzato, per cui i ragazzi di Costa Rica che 20 anni fa non avevano gli stessi strumenti, gli stesse strutture, gli stessi impianti per poter fare calcio come si poteva fare in Italia o in Europa, oggi hanno questa possibilità, e in un mondo come questo, nel quale quindi si viaggia con una grandissima velocità, c'è una serie di conoscenze, i giocatori fin da giovanissimi fanno il giro del mondo per andare a giocare dall'altra parte, noi dobbiamo essere competitivi, non è più il calcio tradizionale delle grandi scuole calcistiche, nelle quali quindi era quasi per decreto che eri fra i primi 5-6 del mondo. Oggi devi riuscire a essere competitivi. Sì, vogliamo dire, tutta la tradizione è globale. Non è più il calcio in cui magari ti cresce un allenatore in federazione, come pure qualcuno dei candidati, capito, della FIGC anche perché ci vorrebbe un buon istruttore, e non mi pare che ce ne sia granché visto l'andazzo. Quindi ci servono buoni istruttori per fare buoni allenatori, magari fare una scuola tipica per CT, ma ci vogliono anni e anni per fare queste cose. Sì, intanto Pier, ti saluto col messaggio di Mattia da Como, che dice: grande Pardo, Hiddink era perfetto, magari chiamiamo quello del Liverpool oppure Simeone. Insomma, esagerato. Ciao Pier, ci vengo. Ciao Pier, a domani. C'è Giovanni Galeone? C'è già? Giovanni Galeone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Non è più tempo di CT costruiti in federazione, noi siamo fermi credo a Bearzot, poi Vicini e poi anche dopo Maldini, penso. Cesare Maldini però non è più quel tempo. No, non più. Qualcuno ho sentito, letto, che propone qualcosa del genere, però abbiamo buoni allenatori in Italia, scegliamone uno decente, sì. E soprattutto ho sentito alcune parole prima, rendiamoci conto che se non andiamo avanti, non ristrutturiamo i settori giovanili, non combiniamo niente, c'è niente da fare. Io queste cose qui le dicevo nell'84-85 quando allenavo in Serie A, quegli anni lì qualcuno mi ascoltava, ho continuato a dirle, però non è che abbia avuto molti risultati, ecco. Io d'altronde continuo sempre a fare degli esempi per quello che era il calcio italiano anche nelle grandissime squadre, quando c'erano i settori giovanili organizzati, quando il Milan giocava con Noletti, Trebbi, Pelagalli, Salvatore, Trappattoni, Danova e compagnia bella, tutti provenienti dal settore giovanile del Milan, e l'ultimo grande Milan vincente prima di Sacchi e poi di Capello aveva i vari Tassotti, la Borio, la Lazio, ma sempre dal settore giovanile. Cose che non succedono più oramai da anni, Baresi, per i club. Alli, Maldini, cioè avevano già la aggiungerei Vani, Vani, che adesso è anche un bravo allenatore tecnico nazionale. Sì, tecnico nazionale, però ripeto. I settori giovanili venivano su con la mentalità di quella società, con quelle caratteristiche, con quelle peculiarità, e si riusciva a fare qualcosa. Adesso andiamo sì molto a prendere ragazzi giovani all'estero, ce ne sono tanti, forse costano meno, non lo so questo. E poi mancano i grandi maestri, ci sono molti allenatori che pensano ai numeri, ai 3-4-3-3, ai 5-2-3, che ne so, io neanche me li ricordo tutti i numeri che ci sono, però insegnano poco a giocare a calcio. Bisogna cercare di insegnare a giocare a calcio, non bisogna fare solo una questione di numeri, di tattiche, quelle vengono dopo. Lei conosce bene ovviamente Allegri, noi sappiamo perché ne abbiamo parlato anche in diretta, insomma, che a dicembre Allegri era stato preallertato, gli era arrivata la telefonata quando sembrava che Prandelli dovesse chiudere dopo il mondiale, e Allegri si era anche detto disponibile. È il profilo giusto per questa nazionale? Ma è uno dei profili giusti, è sicuramente uno dei profili giusti. Ho sentito fare anche altri nomi, a tutti i nomi interessanti, anche Roberto Mancini stesso. Sì, però Allegri e Mancini sono un profilo, Guidolina ad esempio è un profilo completamente differente rispetto a quello di Allegri. Sì, io molto probabilmente sono di parte, questo è chiaro. Sì, Galeone chiamerebbe Allegri, questo è banale dirlo, chiaro. Questo è abbastanza banale. No, ma ragioniamo sul profilo, io però. Io chiamerei Allegri o chiamerei Mancini come profilo, proprio anche un po' per rivoluzionare un po' tutto, per dare alla squadra anche a un allenatore che crede nei giovani, che fa giocare i giovani, che non ha paura a far giocare i giovani, e soprattutto che abbia una buona lettura di quelle che sono le qualità tecniche dei giovani, perché anche la scelta dei giocatori è una cosa molto importante. Fare delle selezioni non è la stessa cosa che allenare una squadra. Io ricordo il periodo di Sacchi, quando venivano convocati 100 giocatori per la nazionale. Io dico che non ci sono 100 giocatori in Italia degni di mettere la maglia della nazionale. Per cui bisogna andare a scegliere quelli effettivamente bravi. Sì, si potrebbe ragionare sui 30, da cui tirar fuori un progetto. Io vedo che negli altri sport sarà anche più facile probabilmente, però i valori tecnici vengono dati all'inizio, una squadra viene valutata, si sbaglia non di tantissimo. Qua sui giocatori, insomma, io vedo molto spesso che vengono riacquistati giocatori che erano già passati per il campionato italiano, non avevano avuto nessuna valutazione, dopodiché ritornano quando costano 15-20 milioni di euro o cose del genere. Ecco, questi, perché succede questo? Perché non c'è una giusta valutazione di quello che è il giocatore. Sì, non è facile valutare, evidentemente serve professionalità anche da questo punto. Certo, serve. Prego Riccardo. No, volevo dire, Galeone, secondo me più che altro serve un allenatore che non pensi troppo al gioco. Io so che devo dire una cosa che le farà venire i capelli bianchi o anche peggio, ma per la nazionale più che gioco serve avere l'immediata capacità di far giocare i giocatori e poi magari di andare anche a vincere. Perché quando parliamo di progetto per la nazionale, che al massimo sta insieme un mese quando va bene, se no fanno questi raduni di 3 giorni, 4 giorni, una settimana, 15 giorni, non puoi pensare al gioco, devi pensare a farli rendere al massimo e essere capace di trovarli, cioè di selezionarli. La mentalità o tra virgolette il gioco lo devi trovare quando cominci ad allenare i settori giovanili e quando dai ai giovani italiani o nati in Italia o oriundi o cose del genere una mentalità di un certo tipo di gioco, così come ce l'ha. Non è difficile vedere che l'Olanda ha un tipo di gioco, così come la Colombia, così come il Messico, cioè questi qui hanno scuole e trasmettono poi sul campo quella che è la loro scuola. Noi non avevamo una scuola, quando dicevano che noi eravamo catenacciari o cose del genere, noi abbiamo avuto una scuola. Sì, noi eravamo quelli del gioco verticale, perché poi questo è il contropiede, è il gioco verticale. Noi abbiamo avuto prima i Viani, i Rocco, poi i vari Trapattoni, cose eccetera, abbiamo avuto una mentalità, una filosofia di gioco di un certo tipo che c'era un po' anche in... Ci ha rovinato Sacchi, questa è la verità. Dopodiché ci ha rovinato un po' Sacchi. Ma ci hanno rovinato molto i falsi imitatori di Sacchi, quelli che non hanno capito. E anche gli adulatori, per dire la verità. Ecco, quelli che non hanno capito niente di quello che voleva fare Sacchi. È chiaro che Sacchi con quel 4-4-2, col famoso pressing, con la squadra corta, con la grande ammucchiata sulla metà campo, dove un po' ha vinto più l'aspetto fisico che non l'aspetto squisitamente tecnico. Dopo lui aveva chiaramente dei grandissimi giocatori che potevano fare anche la differenza, però il fatto che continua ancora oggi a scrivere Sacchi, anche se sui quotidiani più venduti in Italia, continua a parlare molto di questo pressing, di questa squadra corta, di queste cose qui, che sono cose insomma di cui si parlava 25-30 anni fa. Sì, nel frattempo è cambiata almeno una generazione, almeno una di allenatori, nel modulo di giocatori. Nel frattempo non più neanche Tassotti, Baresi, Costa Curte, Maldini, che poi era una difesa straordinaria, che ci fosse stata oggi al mondiale noi saremmo già avanti chissà. Sì, lo vinceremmo probabilmente quel mondiale a prescindere dai moduli. La Colombia che gioca con Zuniga, Yepes, Zapata e Armero, no? Gente che potrebbe portare la borsa probabilmente a Baresi, Maldini, Costa Curta, quella gente lì. Io devo lasciare il mister, voglio chiedergli flash una risposta: si riparte o no da Pirlo? Cioè, Galeone, prossimo CT della nazionale, il 6 settembre che fa le prime convocazioni, lo chiama o no Pirlo? No. Proprio come segnale, No. Grazie, arrivederci. Arrivederla voi. Arrivederci. No, grazie, arrivederci a Pirlo, io intendevo. Non ci siamo capiti, non è un problema, torniamo subito. È gol. Tutti vogliono la moviola, la gente vuole la moviola. La moviola in campo. Tutti convocati. Presa più bella dai nostri avversari, che hanno giocato una serie straordinaria fino alle ultimi secondi, rendendo ancora più incredibile l'epilogo e ancora più gratificante la celebrazione. Abbiamo convissuto con il peso dei pronostici per un anno, lo abbiamo fatto con grande dignità, accettando le critiche, talvolta forse esagerate, ma questo successo forse ci permette di tornare indietro e ripensare al cammino attraverso il quale siamo arrivati qua, e io penso abbiamo fatto un gran lavoro. A proposito di pressione, perché noi abbiamo parlato molto della pressione che hanno i giocatori brasiliani, pressione l'avevano anche i giocatori di Milano che venerdì hanno festeggiato lo scudetto numero 26. Saluto Nicolò Melli, uno dei protagonisti della cavalcata dell'Armani. Ciao Nicolò, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Cosa resta sulla pelle di quella festa, la festa di venerdì al Forum? Abbiamo visto delle immagini meravigliose, meravigliose per gli amanti del basket, non solo credo per i tifosi di Milano. Ma sulla pelle rimangono sicuramente tutte le volte che abbiamo preso dai tifosi che hanno invaso il campo. Nel cuore rimangono delle emozioni spettacolari, qualcosa che magari si sogna, a cui magari si pensa prima di arrivare a una partita del genere, cercando di immaginare come può essere il festeggiamento, come possono essere le emozioni appunto che si provano, quando poi in realtà quello che vai a vivere è qualcosa di indescrivibile e impensabile. Quindi nel cuore rimangono delle emozioni stupende che hanno coronato, credo giustamente, una stagione ottima. Rimane anche poca voce, mi pare di capire, Nicolò. Sì, diciamo che sono stati due giorni abbastanza intensi, ecco. Sì, faticosi. Esatto. Sì, dove eri nel 96? Credo avessi 4-5 anni, non di più, data dell'ultimo scudetto. Credo di aver iniziato a giocare a basket nel 96, quindi avevo 5 anni, ero piccolino io. Sì, la sentivate la pressione della necessità di far ricominciare a vincere Milano dopo 18 anni, tantissimo tempo per una piazza abituata a dominare il basket italiano? Guarda, io sono qua da 4 anni, ma ti garantisco che i 18 anni li sentivo tutti. E credo che anche i miei compagni di squadra, quelli che magari sono arrivati qua quest'anno, addirittura a gennaio, sentissero tutti questa urgenza, questa voglia incontrollabile da parte della piazza di vincere. Non è stata una stagione semplice, è stata una stagione lunghissima, però credo che alla fine abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, qualcosa che rimarrà per sempre nella storia. Ma Melli, scusi, volevo chiedere una cosa, ma cosa sentivate? Cioè, quanti anni sentivate addosso in quel periodo in cui vi siete fatti rimontare durante la partita? Che devo dire, io l'aspettavo e dicevo, ma stava a vedere che riescono a fare una frettata. Ci ha provato in tutti i modi, esatto, a buttarla via questa serie. Quanti anni sentivate addosso in quei momenti? Ma io ne sentivo tanti, non so gli altri, non ho ancora avuto modo di parlare in maniera compiuta con i miei compagni di squadra, perché in questi due giorni festeggiando, diciamo che le frasi complete si contano sulle dita di una mano, però in quel momento lì la tensione, forse la paura era tanta, però ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che non potevamo farcela scappare così, non potevamo, non in questo modo, non a casa nostra, non dopo tutto quello che abbiamo passato nel bene e nel male. E poi così è stato, così abbiamo rimontato, abbiamo avuto una grande dimostrazione di forza e di cuore e di volontà. Sì, vi è passata per la testa la rimonta del Maccabi, immagino anche che è un po' il simbolo, insomma, al contrario della stagione, di questa stagione di Milano, che forse a un certo punto si stava materializzando di nuovo anche in gara 7 con Siena. Credo che la rimonta del Maccabi sia stata qualcosa di diverso, perché comunque quella è maturata in due minuti ed era comunque una partita diversa rispetto a quella di ieri sera. Quella di ieri sera era la partita, era quella che decideva veramente la stagione in tutto e per tutto. Quella del Maccabi era la prima di una serie che poi comunque abbiamo perso, ma questa era la partita, cioè il giorno dopo non c'era più niente. Sì, c'erano le vacanze il giorno dopo. Ma volevo chiedere, siccome ho visto che avete messo la maglia che ricorda le scarpette rosse, che per quelli che hanno la mia età, scarpette rosse è un simbolo, come quando dici Maradona nel calcio, dice scarpette rosse nel basket di Milano. Serve ogni tanto pensare a queste cose? Serve indubbiamente, credo che però paragoni non sia giusto farne. credo che ogni squadra abbia fatto la sua epoca, e quindi non è giusto paragonarci. Credo che le scarpette rosse, credo che più che un rimando a quella squadra, era credo più una sorta di, come dire, di speranza a tornare a vincere, ecco, non so come dire. Credo che nessuno di noi si voglia paragonare quella che è stata una squadra leggendaria. Credo allo stesso tempo però che ognuno di noi in questi mesi, da quando diciamo è uscito poi questo slogan, si sia così, abbia fatto più del necessario per cercare di tornare a essere una piazza vincente. Nicolò, lo sai da quanti anni non vince Milano la Coppa dei Campioni? Adesso si chiama Eurolega, ma l'Eurolega Milano non l'ha mai vinta? Lo sai da quanti anni non vince la Coppa dei Campioni? Esattamente 27 anni, 1987, stiamo parlando di due ere geologiche fa, credo insomma anche di più, forse se ragioniamo di pallacanestro, mi sembra di poter dire che l'obiettivo l'anno prossimo quello sia, visto che il panorama in Italia insomma non proporrà un campionato di altissimo livello, spettacolare, sparisce Siena, ci sono mille ragioni, insomma Milano sarà più che mai favorita, voi partite ragionando sull'obiettivo europeo? Ma io prima di tutto vorrei fare una premessa, nel senso che non è così scontato che Milano vinca. Cioè, no, scontato no, però insomma. No, nel senso, è vero che probabilmente il campionato italiano non è probabilmente il campionato con il più alto tasso tecnico, però per quanto riguarda Milano, tutte le volte che noi siamo entrati in campo, la squadra avversaria, che per la squadra avversaria era la partita dell'anno, cioè noi abbiamo disputato ogni settimana una finale, nel senso che la squadra avversaria contro di noi dava sempre il meglio, perché c'è la squadra col più budget, la squadra più blasonata, insomma, quindi non è così scontato. Indubbiamente su Milano c'è sempre questa cosa che deve vincere, non può vincere, deve vincere. Sì, la pressione da cui siamo partiti. Quello che sarà l'obiettivo dell'anno prossimo non lo so, credo che ci si voglia migliorare, e quindi probabilmente il passo successivo è quello, è sicuramente un passo ancora più grande di vincere uno scudetto, quindi non so quali saranno i ragionamenti che verranno fatti in estate, ma credo che per una società come questa sia legittimo porsi dei grandi traguardi. Sì, io credo che il primo segnale sarà cercare di trattenere Gentile, e questa è l'intenzione dell'Armani. Poi noi sappiamo che fra un paio d'anni parleremo di Nicolò Melli scelto nel draft dell'NBA, perché questo è il destino dei ragazzi del basket italiano, che invece si stanno facendo onore. Noi abbiamo passato un'ora e mezza a parlare male dei calciatori. Peccato per la nazionale, perché così bravi, poi dopo con i nazionali ci perdiamo un po'. Eppure tutti hanno questo legame con la maglia azzurra. Grazie Nicolò, so che avete ancora festa, ancora impegni, complimenti ancora. Grazie mille, grazie a Nicolò Melli. 800 24 00 24, 42esimo, Olanda Messico 0-0. Intanto Riccardo, abbiamo visto prove del calcio del futuro, perché al 30esimo si è fermata la partita perché ci sono le condizioni di caldo. Noi abbiamo due teleschermi, lo diciamo agli amici a casa, Sky e Rai. Su entrambi i teleschermi sono partiti gli spot pubblicitari. Questo è il futuro, perché quest'anno la FIFA non si è ben organizzata. Vedrete che quindi non li hanno venduti. Non li hanno venduti, esatto. Vedrete che ai prossimi mondiali ci saranno più time out, così ci saranno più spot, così ci saranno più soldi. E come si suol dire, conta il fatto economico, conta sempre meno il calcio. Sì, assolutamente. Ubaldo da Vicenza. Ubaldo. Buonasera. Buonasera, prego. Posso dire due cose? Sì. Balotelli ha sbagliato, basta, finiamola, lo lasciamo a casa perché è un blef, non giocatore. Seconda cosa per me, due buoni allenatori, Mancini e Allegri, uno dei due, basta. Mancini e Allegri, uno dei due. Uno dei due, sì. Io scelgo Mancini. Sì, io scelgo Mancini anch'io. Tra l'altro dico la mia, l'avevo promessa all'inizio su Conte, su cosa penso degli allenatori part-time. Penso che in Italia l'esperimento non sia riuscito, ma anche in altri sport che hanno meno pressioni, parlo della pallacanestro, della pallavolo, credo che il calcio italiano non sia pronto, ma forse non è nemmeno giusto, perché comunque una nazionale merita che ci si pensi 365 giorni all'anno, anche se poi gli impegni sono quei 2-3 giorni per le partite di qualificazione, o il mese quando c'è da preparare l'europeo o il mondiale, però, però merita secondo me un CT a tempo pieno. E comunque forse tutti ci dimentichiamo che un CT ci sarebbe in giro per l'Italia, che si chiama Ancelotti, ma costa troppo. Quando costerà meno, quando avrà finito con Real Madrid, probabilmente potrà anche andare alla nazionale. Non dimentichiamo che questo allenatore della nazionale, questo CT durerà 2 anni, esattamente come il presidente federale, perché poi la scadenza del quadriennio olimpico, ci sarà un nuovo presidente federale e si vedrà se ci sarà anche un nuovo allenatore. Quindi qui serve un allenatore che in 2 anni riesca a mettere in piedi la nazionale, a portarla a fare gli europei, che sia veloce e sbrigativo. Io penso che Mancini sia più bravo di Allegri, perché Mancini è più selezionatore. Sì, non sarà un'impresa titanica, andare agli europei. Noi abbiamo in girone Norvegia, Malta, Croazia, Bulgaria, Azerbaigian, ma passano le prime due e ripescano anche la migliore terza. Ma come tu sai, in Italia sappiamo fare di tutto e di più, quindi non mettiamo limiti alla nostra fantasia. Sì, alla provvidenza. Mirko da Forlì. Mirko. Buonasera. Buonasera, prego. Volevo dire solo una cosa, al di là del fatto che Balotelli abbia disputato un mondiale penoso, no? Però non possiamo dare tutte le colpe a lui, cioè, le colpe principali le ha Prandelli, secondo me, per il fatto di non aver portato al mondiale dei sostituti all'altezza. Sì, neanche i titolari all'altezza, che secondo me è il vero problema, però quello era quello che offriva. Io non so se abbiamo lasciato a casa qualcuno che potesse spostare gli equilibri. Io sono sempre dell'idea che Pepito Rossi te lo dovevi portare anche per farlo giocare a 20 minuti. Facciamo l'ultimo esempio: quando è uscito Balotelli per ovvie ragioni, perché aveva litigato e comunque non stava andando, metti Immobile e ci si fa male Immobile, Pepito Rossi 20 minuti è meglio di Cassano in quel ruolo. Quindi io penso che soprattutto nel ruolo dell'attaccante Prandelli ha sbagliato, perché sa benissimo che portandosi Balotelli era un rischio sotto molti punti di vista. Gli attaccanti devono essere almeno 3, lascia a casa Cerci, lascia a casa Insigne, lascia a casa Aquilani, fai quel che ti pare, ma comunque gestisci un po' meglio la situazione. Tutti convocati. Sì, tra l'altro fra le cose che noi italiani sappiamo inventarci c'è anche il ritiro aperto per il mondiale, che adesso sta diventando una serie di retroscena tra giocatori che correvano in spiaggia dopo gli allenamenti in questo grande villaggio vacanze. Sì, era un viaggio vacanze, però devo dire, a me sembra che tutto sia stato molto gonfiato, perché tanto i tempi non c'erano. Facevi l'allenamento al mattino, l'allenamento pomeriggio, dovevi fare comunque la colazione, dovevi mangiare, c'erano dei tempi tecnici da rispettare. Dopo, nella seconda parte della giornata, quindi dopo l'allenamento del pomeriggio, evidentemente potevano stare più tranquilli, qualcuno stava con le famiglie, qualcuno stava solo, qualcuno stava alla PlayStation, ma sono cose tipiche. Io non sono così, secondo me è stata creata una situazione per la quale ci dovevano essere dei colpevoli. Fra i colpevoli mettiamoci anche il ritiro aperto. Io penso che è molto peggio la condizione fisica in cui questi giocatori sono arrivati al mondiale, sia come sono arrivati a Querciano, sia come sono arrivati al mondiale, e qui qualcuno dovrebbe interrogarsi. Oh, c'è qualcuno che scrive: dovete dirci come faceva a segnare Balotelli nell'ultima partita, però ce lo deve dire, altrimenti la trasmissione sono solo chiacchiere da bar. Balotelli nel primo tempo dell'ultima partita non ha dato il meglio di sé. Secondo me Balotelli è molto meno colpevole per quello che è successo con la Costa Rica, soprattutto nel primo tempo, quando è stato letteralmente abbandonato a se stesso. In fondo contro l'Uruguay ci si poteva anche aspettare qualcosa di più, e poi quell'atteggiamento sbagliato, l'ammonizione, il rischio dell'espulsione, esatto. Perché poi nasce tutto da lì. Il problema vero di Balotelli è stato con Costa Rica: ha avuto 2 belle palle gol, le ha sbagliate, gli si è chiusa, ha proprio interrotto i collegamenti. Ha messo una chiavetta a stop e tanti saluti. Questo è il suo grande problema, perché non è solo qua che l'ha fatto anche in campionato. Lui, quando vede che le cose non vanno per il verso giusto, prende, si astrae, si perde, è finito. E con l'Uruguay, devo dire, quando gli ho visto prendere quella munizione, era chiaro che uno che piglia una munizione in quel modo non c'è. E Balotelli purtroppo è questo, i limiti di Balotelli sono questi. Sì, Fabio da Rimini. Fabio. Pronto, grazie per la convocazione. Grazie a te, prego. Allora, a costo di ripetermi, il buon Pierluigi Pardo mi ha bruciato sul tempo, volevo avanzare la candidatura ha cinquita nazionale per Gus Hiddink. Sì, ma Hiddink ha firmato con l'Olanda, quindi lasciamolo lì. Andiamo su candidature concrete. Ok, io vedo in pole position Mancini, poi Allegri ed eventualmente Spalletti, ma lo vedo già abbastanza fuori dai giochi, onestamente. Sì, poi c'è chi dice io vorrei Mourinho, c'è chi scrive Zeman, a questo il podio forse perderemo, come peraltro avviene da molti anni, ma almeno ci divertiamo. No, per le giovanili sarebbe ideale. Io infatti non ho ancora capito perché nessuna società di calcio, adesso Zeman va al Cagliari benissimo, fra l'altro Cagliari è una squadra che piace, seguo sempre, quindi sono proprio contento che vada lì, perché lì ci sono i giovani, può lavorare sui giovani. Ma perché non prendete Zeman per far crescere i giovani nelle vostre società? Lui vi dà i giovani, poi dopo li fate giocare, perché questa è la sua grande capacità. Ma ad esempio Guidolin, perché invece non viene coinvolto in nazionale? Ma non per fare il CT, secondo me non ha il profilo giusto, ma ad esempio per prendere il posto di Sacchi con le giovanili della federazione. Ecco, Guidolin, ecco, per esempio Guidolin è un altro caso. Questo sarebbe Guidolin, un progetto. Guidolin, esatto, però devi, dopo il progetto devi dare seguito anche alla nazionale maggiore, perché se fai un progetto e poi la nazionale maggiore è un'altra cosa, non ci siamo. Guidolin ha due problemi, a mio modo di vedere. Primo, che non sopporta molto lo stress, e in nazionale deve essere un fenomeno, perché comunque ti arriva addosso delle pressioni che non finiscono più. Prandelli se le ha evitate grazie alle sue amicizie, però alla fine avete visto che tutti vanno a finire male. La seconda cosa è che lui ha bisogno di far giocare la squadra, c'è bisogno di averla in mano, costruirla, plasmarla. Sì, esattamente, lavorare quello che non ha un CT come tempo. CT questo tempo non ce l'ha. Intanto finito il primo tempo a Fortaleza, Olanda-Messico 0-0, non benissimo l'Olanda, chi ha scommesso sull'Olanda, insomma. Ma il Messico è un vago rompiscato, eh? Sì, squadra molto solida, non bellissima da vedere, squadra però molto solida. Impegna. Certo che l'Olanda, se dovesse mancare questa occasione per correre fino a una potenziale semifinale con l'Argentina, secondo me dovrebbe fare una bella riflessione, perché la squadra è forte, ha i top player che hanno esperienza. L'Olanda ha perso l'altra finale. Sì, assolutamente. Massimo da Lucca. Sì, buonasera. Buonasera, prego. Ascolti, niente, io volevo dare il mio podio per gli allenatori. Sì. Pensavo a Ventura, Zeman. Ventura. Sì. Anche perché secondo me potrebbero essere i pochi allenatori graditi da tutti. Conte assolutamente no, perché in mezzo Italia non lo Conte no, certo. Una delle metà italiane. E poi penso che allora Ventura sembrerebbe, perché potrebbe dimostrare che è un allenatore a tutto tondo. Zeman non ha mai avuto giocatori in difesa da segnare per il modulo che ha sempre fatto. Sì. Passando tra i migliori in Italia potrebbe fare bene, anche se il modulo, come dicevate voi prima, non è semplice poi da adottare. E Ancelotti comunque ha vinto da tutte le parti. Sì, a me sembra che Ancelotti, Ventura e Zeman nella stessa terzina, Riccardo, non ci possano stare. No, devo dire che sono profili diversi. Profili diversi. Ancelotti è il problema comunque di costare troppo. Io penso che qua due su tre di questi allenatori però puntano tutto sul gioco. Dimentichiamoci il gioco. Sul gioco devi lavorare tanto, sempre, continuativamente, per mesi, mesi e mesi. Questi allenatori sono bravi quando possono fare questo tipo di lavoro. Sì, ma vogliamo dire che poi ci vuole anche un nome che sia immediatamente spendibile. Adesso, con tutto il rispetto, certo, per Ventura, ma anche per Guidolin, Andrea. Soprattutto oggi che siamo abituati a queste cose. Una volta tu avevi Valcareggi, mettevi Berzotto, nessuno diceva niente perché era logico, ci stava. Oggi invece hai bisogno del nome, perché comunque l'apparire, insomma, tante cose messe insieme ti spingono ad aver bisogno di queste. Cioè, io ricordo le polemiche quando fu scelto Donadoni, certo, dopo Lippi nel 2006, in un momento tra l'altro di confusione simile dal punto di vista di vuoto di potere all'interno della federazione. Povero Donadoni, che poi si trovò i gufi sopra la spalle quando fece l'europeo, che fece un europeo ottimo, perché guardate dove è arrivata quella Spagna, che Donadoni. Donadoni sarebbe secondo me il CT ideale oggi. Ecco, Donadoni potrebbe essere il CT ideale della prossima nazionale. Credo molto più a Donadoni che a Mleg da questo punto Donadoni di vista. Donadoni sarebbe il CT ideale. Andrea da Firenze. Andrea. Sì, ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ma io, venendo di seguito a quello che era l'argomento, diciamo, di cui stavate trattando, dell'allenatore, poi avrei da fare una considerazione su un'altra cosa. Io sull'allenatore è vero che è sempre difficile, molto difficile scegliere l'allenatore, però ecco, io andrei sicuramente su allenatori che hanno esperienza internazionale, per esempio Spalletti e per esempio Mancini, perché su Guidolin e su Ventura, per quanto possano essere sicuramente molto preparati tecnicamente, francamente non vedo che non credo che possano avere, potrebbero avere una grande fortuna, ecco, questo è il mio pensiero. Sì, ci vuole un profilo diverso, ma del resto l'abbiamo detto, i tempi sono cambiati, ci vuole gente anche aggiornata che magari si porti anche parte di uno staff che conosca a menadito il calcio internazionale. Si porta dei buoni preparatori fisici, perché è stato dimostrato che qui la preparazione fisica è basilare in certe competizioni. E per esempio, ecco, io vorrei sapere Allegri chi si porterebbe in questo caso. Sì, perché la preparazione fisica di Allegri non è il punto migliore del suo curriculum. Abbiamo ancora un paio di minuti, ce la facciamo? Sì, Francesco da Torino. Francesco. Sì, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera, grazie della convocazione. Grazie a te. Niente, io volevo solo intervenire in merito all'argomento di questo pomeriggio, ho sentito un po' di interventi. Volevo dire anche la mia, sono sicuramente d'accordo con una dichiarazione di un vostro ospite che diceva che più che un allenatore abbiamo bisogno di un selezionatore, perché io sono convinto che in ogni caso la bravura del tecnico, e abbiamo visto Prandelli che figura ci ha fatto fare, e nel saper collocare esattamente i giocatori nel loro ruolo e in quello che fanno, sono capaci a fare in campionato, che hanno fatto in campionato. E mi riferivo soprattutto a, sono anche tifoso granata, quindi posso permettermi di fare questa dichiarazione, soprattutto a non sfruttare la potenzialità di Cerci sulla destra combinata con Ciro Immobile, che erano anche coadiuvati. Sì, era una delle possibilità di questa nazionale. Poi c'è anche lo spessore internazionale, però, esatto, dei giocatori, Francesco. Io devo dire, visto che l'ho detto io, questa cosa del selezionatore che deve fare il selezionatore e non l'allenatore, Cerci è francamente è stato deludente, perché proprio si è visto che gli manca un po' di spessore internazionale. Io l'avevo notato anche in campionato, perché se lei ricorda, lei che è tifoso del Torino, ricorda la partita d'andata del derby, quando Cerci lo misero a fare un po' la centravanti, non proprio il suo ruolo, si perse completamente. Sì, insomma, l'esperienza fa tanto, magari Immobile fra un anno è un Immobile diverso. Noi abbiamo finito, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Nicolò Rossoni in redazione, Valeria Bernardi e Filippo Aureggi che si sono alternati dietro il vetro. Grazie a Riccardo Signori. Arrivederci a tutti. Allora, tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14. Noi invece ci risentiamo sabato alle 17. Ciao. Convocati.